Il comitato nasce per affrontare una volta per tutte quello che è il problema del degrado di un'opera storica della città di Bologna che esiste da 900 anni e che tanto lustro ha dato alla nostra città. Nasce dall'esigenza di preservare un bene storico, nasce dall'esigenza di avere una maggior sicurezza per coloro che abitano lungo il percorso del Navile e nasce per una questione di decoro, perché non è possibile avere un'opera di questo genere lungo la quale persone che oggi si avventurano in una passeggiata debbano respirare olezzi veramente poco dignitosi e soprattutto avere intorno un ambiente che è tutt'altro che bucolico. Che cosa è stato o non è stato fatto finora dalle istituzioni? Qual è stato il percorso storico di questa lotta che conducete? Percorso storico è questo: lungo il canale dal 1948, in cui è stata interrotta la navigazione, il canale è stato declassato a irrigazione, a irrigativo, non è più stato fatto nulla, è stato abbandonato completamente, salvo una pulizia che è stata fatta da divani, lavatrici e vasche da bagno, oltre che scooter o carrelli della Coop. Non è stato fatto altro se non occasionali e saltuari pulizie dell'alveo in certi punti in cui la sicurezza dettava assolutamente la necessità di intervenire, oppure segando qualche albero che diventava pericoloso perché poteva cadere sulla testa di chi ci passeggiava. Quindi tutto qua, non è stato fatto nient'altro, dagli anni 50 in avanti non è stato fatto praticamente nulla ed è quello che noi chiediamo invece di fare per ripristinare un minimo di decoro di quello che è un'opera pubblica di questo tipo. Quali sono le principali richieste che fate adesso al comune ma anche alle istituzioni che sono coinvolte appunto nella salvaguardia del Navile? Beh, le richieste sono inserite in quello che è il progetto di iniziativa popolare che andremo a consegnare lunedì insieme alle 3650 firme. Sono tre i punti fondamentali e sono il governo delle acque, vale a dire la separazione chiara e netta di quello che sono le acque chiare e le acque scure, cosa che ad oggi ancora non è dato di avere come risultato finale, c'è ancora un po' di lavoro da fare. Chiedere di avere un minimo di flusso di acque all'interno del canale per quello che riguarda il consorzio di Reno e il recupero di quello che sono i manufatti storici che insistono sul canale, vale a dire i sostegni, vale a dire le opere idrauliche come le chiuse delle conche, eccetera. Il terzo punto, che fa parte, come dicevo, del progetto di iniziativa popolare, è il recupero del verde, cioè cominciare a pulire quello che sono le sponde per evitare che gli alberi secchi caschino all'interno del canale e caschino soprattutto sulla testa delle persone che frequentano ancora oggi il canale.